adesso sono 10.000 euro circa, sono 2 milioni. Muori in un momento molto critico, perché si rialzò. No, ma già fuma, cioè l'emergenza riusciamo a... Non è fascista,